and girls. Your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Ma io non so nemmeno come cominciare. Cioè, ma tu comincia intanto, no? Non so come. Non so. Tu vabbè, fai. Allora, ok. Cari bambini, benvenuti a Chiedo Asilo, il programma a voi dedicato ogni pomeriggio. Ma cosa dici? Ma cos'è? Ma non, vabbè, ma sono bambini. Scusa, ci hanno chiamato qui a Radio 24 a fare una trasmissione per i bambini, no? Sì, no, sì. Beh, quindi, allora, per i bambini, sui bambini, non si è capito bene, no, però Radio 24, accidenti, è una radio seria. E quindi? E quindi sarà un programma, in realtà vogliono un programma che non è per i bambini, ma per i genitori, capito? Il problema dei bambini, la scuola, la mensa, la babysitter, gli asili nido, no, arrivare alla fine del mese. Ma i genitori sono più bambini dei loro bambini. Drago, ormai il mondo si è infantilizzato. Quello c'è una regressione da tutte le parti, cultura, politica, musica, ma anche il vivere di tutti i giorni. Ci comportiamo tutti come bambini, quindi questa è una trasmissione per gli adulti che però sono bambini, quindi alla fine è una trasmissione per i bambini, coi bambini, sui bambini. Allora forse va bene anche cari bambini. Ma sai cosa? No, non va bene quello. Comunque è una trasmissione tra i bambini, perché siamo all'asilo. È vero, siamo all'asilo, siamo tra i bambini. Siamo qui fra i bambini. No, tra i bambini. Fra i bambini è uguale. E non è uguale. Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Sono tra, fra, sono due diverse. Tra sarà tra due persone e fra nella moltitudine. Questo tu lo stai inventando. Sì, no, ma in realtà la parola originaria era tra. Poi nei secoli l'articolazione, quando la gente all'epoca perdeva i denti presto, tra ha cominciato a diventare fra, poi fra, e quindi è diventato accettabile. Guarda che c'è una differenza tra fra e tra, o tra tra e fra. Ma com'è? Fra tra e fra. Tra tra e fra. Fra. E questo cos'è adesso? Cos'è? No, ma non preoccuparti, quello è solo Tito il tutor. Il tutor, ma non lo sai che noi abbiamo un tutor? No, un cane. Eh sì, interviene quando andiamo fuori tema, facciamo riferimenti che non c'entrano niente e che quindi potrebbero ingenerare un po' di confusione nella mente del povero ascoltatore medio. Ecco, questa cos'è? Che è calcolato sul modello di ascoltatore medio conservato a Zurigo in una teca di vetro, insieme al metro, al chilo. Questo lo stai leggendo? No, cos'è? Questo il è vero, è il contratto che abbiamo firmato. Ma vedi, quindi, che io ti dico di leggere i contratti, certe cose me le dovresti dire. Cos'è il cane che ci fa da tutor? Cane, non dovrebbe essere tutor, il contrario. E quando arriva lui bisogna tornare in fretta e furia a quello di cui si stava parlando prima. Ok, e cioè, ok, dai, la differenza tra fra e tra. Ma no, vabbè, dai, allora ricominciamo, dai comincio io, vai, dai. Avevi detto che cominciavo io. Vabbè, comincio io, dai. Qui c'ho la scaletta, c'è scritto che comincia Drago. Per forza la scrivi tu, però comincio io, dai. Ma scusa, ma vogliamo mica litigare? Ho detto che comincio io! Ma allora, ma non vedi, si può neanche litigare. No, litigare, non siamo mica bambini, eh. Ma cosa vuol dire bambini? Tanto mica litigano solo i bambini. Beh, insomma. Guarda che in Italia litigano tutti, eh. Bisturi? Bisturi! Prenditelo tu il bisturi! Ma brutta testa di c***o! Ma vaffanculo! Ma vaffanculo! Ti spacco la testa! Bisturi, te lo metto! Sha! Sha! Senti, andiamo in farmacia. Sha! Ma piantala! Le compagno lì. Sha! Cosa c'è che non guarda, va? Guarda che non è fra se dici tra senza denti, ma, È così, è. Ma poi tu i denti ce l'hai, quindi cosa fai? Ti stai preparando all'ospizio? No, semmai all'asilo. Guarda che all'asilo si continuano a perdere i denti. Cosa i denti da latte. I denti da latte. E poi le botte che prendi ti spaccano i denti. Ma all'asilo. No, ma dai, come no? Non è vero. Ma come bambini, no? Ma guarda che il problema numero uno qui all'asilo sono le botte. Vabbè. I bambini si menano, Drago. Ma litigano, ma non è che si menano. No, se le danno di santa ragione. Sono sempre lì a litigare, sempre a insultarsi. Guarda che prima ero qua dietro e c'erano il bambino Sgarbi, il bambino Travaglio e il bambino Santoro. Quei tre lì. Senti com'è andata? Sei una democrazia normale. Io vorrei finire la non frase. Non dire stronzate. Ma non dici frasi, dici stronzate. Siamo in democrazia. Idiota. Ignorante. Allora, ha parlato l'esperto. Capita anche in America. Non sputanare l'Italia. Va bene. Va bene. Certo che è così. Va bene, certo che non è così. Certo che è così. No. Assolutamente no. Sei un bugiardo. Non c'è la neurodeliri. Clap your hands. Applaudite questa testa di... Clap your hands. Mio. No, è mio. L'ho visto prima io. E io l'ho visto prima del tuo prima. E io prima di prima del tuo prima. E io l'ho visto che non esistevi ancora. E io è la prima cosa che ho mai visto. E io lo vedo ora. E io ti pesto. Facciamo a turno. No, facciamo a botte. Facciamo io di giorno e tu di notte. Facciamo io estate e tu inverno. Facciamo io nel cielo e tu all'inferno. Facciamo a chi fa prima. Facciamo a chi fa rima. Ce lo giochiamo a correre. Ce lo giochiamo a carte. Ce lo giochiamo al tiro della corda. Che cos'è che era mio? E chi si ricorda? Oh, che bella la ricreazione, finalmente la ricreazione. Pausa, adesso tocca a noi. Sì, pausa, tocca a noi, ma tocca, scusa, 5 minuti che siamo qui, siamo già all'intervallo, non ho capito. Ma siamo mica in miniera, Drago, è l'asilo, non siamo mica come in Cile, chiusi 700 metri sotto che devono scavare. Anzi, a proposito di scavare, ti consiglio la sabbiera. La sabbietta. No, la sabbiera. La sabbiera, quella vasca lì piena di sabbia, vedi? Dove vanno a giocare i bambini. Certo, andiamo bambini. Anche noi. Io pure che ci sia. Scaviamo? Scaviamo, ma non è che ci vanno i cani anche a fare ma il che bisogno. Cani? No, sai, il tutor. Eccolo, ecco. Vabbè, ma no, noi volevamo solo giocare un po'. Sì, perché giocare, non si può ma giocare. Qui ti imbratti tutto. La ricreazione, Drago, è fatta per giocare. No, non per noi, noi siamo pagati e non per giocare, purtroppo. Ah, siamo pagati per fare un programma per Radio 24 che si chiama Chiedo Asilo. Sì. Sui bambini, per i bambini, tra sì, i bambini. Ecco, ricominciamo. Quindi tra i bambini, ricominciamo sì. Tra i bambini vuol dire che dobbiamo andare a conoscere uno per uno i bambini di questo asilo. Dobbiamo, uno sì, per uno. È uno per uno. Cominciamo a conoscerne uno oggi. Io direi che qui, essendo una radio giornalistica. No, news and talk, si dice. News and talk. Essendo una radio news and talk, potremmo adottare la tecnica dell'intervista, andare a intervistare un bambino sul tema che decidiamo di affrontare. Per esempio? Per esempio, tu sai che prima delle vacanze c'è stato il caso increscioso di quei bambini esclusi dalla mensa dell'asilo perché i genitori non potevano pagare. Vicino a Brescia. Vicino a Brescia. Quindi io direi che questo è un argomento che è triste, siamo d'accordo. Un po', scusa. Ho capito, però... Siamo la ricreazione, i bambini poveri, dai, insomma, ma io voglio andare sull'altalena. Vabbè, ma i bambini che sono sull'altalena sono molto sensibili ai loro compagni sfortunati, vedono gli altri bambini lì esclusi che non mangiano, ma sicuramente sicuramente questa cosa li fa pensare, quindi andiamo a chiedere a questi ragazzini cosa ne pensano. Dai, sì, quel bambino lì, guarda, quello lì con i pantaloni corti macchiati. Ciao bel bambino. Io? Bambino, ciao, come ti chiami? Alberto. Allora. Chiamiamo Albi perché Albi. Sei piccolo. No, Alberto. Diciamo Albertino, dai, piccolo. No, diminutivi. Alberto, allora che cosa ne pensi di questo caso increscioso dei bambini in provincia di Brescia che sono rimasti esclusi dalla mensa scolastica? Che sono fortunati. Forse non hai capito, cioè questi non mangiavano, gli altri mangiavano, quelli perché non potevano pagare la mensa, i genitori non potevano pagare la mensa, loro non potevano così avere servizio di cibo. Ha capito, che servizio di cibo? Cosa la mensa fa schifo. Come la mensa fa schifo? Sì, la mensa fa schifo. Ma vabbè, ma adesso non è quello di cui stavamo parlando, esatto, no? Stiamo parlando della giustizia e ingiustizia di alcuni con la pasta, altri col piatto vuoto. Esatto. Cioè, io magari ho obbligato a mangiare finocchi cotti. Sì. E loro... con la possibilità di non mangiare. Sì, ma non è esattamente... perché io devo mangiare per forza e loro possono non mangiare. Non è che è andata così esattamente. No, infatti... loro volevano mangiare i finocchi cotti, ma non li lasciavano mangiare. I finocchi cotti non so. Beh, non lo so, però quello che c'è. Sì, la prova contraria, io non li volevo mangiare. Cosa? I finocchi cotti. E me li hanno fatti mangiare per forza. Perché non è che puoi alzare il ditino e chiedere, signoria, i finocchi cotti per oggi. Mangiali! Poi mangiali, ma tu dici. Perché così funziona. Ma li puoi lasciare lì, no? Credo. No, poi... loro possono. Loro chi? E quelli della fortuna. Ma quelli della fortuna sarebbero quelli i bambini quelli fortunati, che poi fortuna non è la parola esatta, perché infatti, qui, che sono... qui c'è un po' di malizia, no? Questa qui è una scusa, no? Ma come? È palesemente una scusa. Ma cosa stai dicendo? Per evitare di mangiare finocchi cotti. Ma no, non è vero. Ma quali finocchi come cotti? Come non è vero? Non è vero. Non stiamo mica parlando di finocchi cotti. Stiamo parlando di discriminazione. Appunto. Appunto cosa? Io sono discriminato. Ma come? Io sono obbligato a mangiare finocchi. E loro no. E loro possono non mangiarli. Ah, ecco, è così. E loro no. E lui è discriminato. Lasciamo perdere. Se i bambini sono tutti così. Meno male che è finita la ricreazione. E poi per riscondare in un ospizio. Bambino Albi, ti saluto. Ciao Albi. Alberto. Vabbè. Sì, vabbè, Albertino. Comunque la mensa fa schifo. Torniamo domani, stessa ora, stesso asilo. E scriveteci a chiedoasilo@radio24.it. Sì.